muta nella stanza. Tu non riuscivi più a parlare con me. Ed ogni volta che provavi, immaginavi di essere me. Sicuro e incorruttibile, così diverso da come sono io, che non so più distinguere il bene e il male intorno a me. L'amore non ha padroni, l'amore, l'amore non ha padroni mai, l'amore non ha padroni mai, l'amore, l'amore non ha padroni mai. Noi camminiamo sulla stessa strada, liberi di dirci tutto quello che pensiamo noi. E non mi importa certo se ci amiamo o no, quando le stelle illuminano il silenzio. Sola nella stanza che non ti va nemmeno di leggere il giornale, e ti sei comprata un cane che non riuscirà a riempirti di sé. E se sei guardarmi, ti prego, come la tua strada principale, come se fossi il tuo maestro elementare. L'amore non ha padroni, l'amore, l'amore.